Sabato sera è arrivato ed io sono qui, qui dentro casa da sola e non so dove andare. Mi viene l'idea, vado a ballare. L'orchestra è nell'ombra, al centro le luci. Guardo e mi dici, lei balla con me, il giro incomincia, la luce si spegne, la mano mi stringe, io tremo perché. La macchina è pronta, a casa ritorno, ritorno con te.